Sì, 78 lo dici però. Sentivo portanti a portantino, ho visto, cioè sentivo una portante col bip e una senza bip. Stanno giocando a premere e nessuno chiama. Vabbè Antonè, hai visto il ventaccio di oggi? Porca miseria, te l'hai scelta l'antenna, te la trovi alla Ginara. Sicuro. L'ho vista un po' flessa la mia, da fuori, mentre tornavo in macchina stamattina. Io ero a Piazzale Segni. Stamattina sì, c'era un po' di vento dove eravamo noi, un po' a ridosso, però era passabile. Poi ha rinforzato all'ora di pranzo, ha rinforzato un bel. No, comunque tranquilla, non ti preoccupare. Ci mancherebbe. Ma sì, non ti preoccupare, è tutto quanto a posto l'antenna, lo sai. La mia e la tua sono come gemelle, tale e uguale. Eia. E te mi contas. Vabbè, oggi siamo usciti, comprate due cosette, un giretto così, dai. Poi si è rinforzato il vento e ci siamo tappati a casa qua. Le giornate piano piano, hai notato, si stanno allungando. Comincia a fare buio un po' più tardi. Man mano che passano i giorni, settimane, i mesi, avremo più luce. Speriamo un pochettino, grazie a Dio. Comunque non c'era freddo, cioè io ho guardato il termometro stamattina prima di uscire alle, le 10, io credo di aver letto 16 gradi all'ombra, no? 16 gradi, quindi non c'è assolutamente il freddo che c'è a Nord Italia, tipo, vabbè Nord Italia c'è sempre molto più freddo, qua sembriamo in Nord Africa, altro che Nord Italia. 19 stamattina, no, già lo sai anche tu, io ho fatto la prova, quando sono arrivato a casa siamo 19 gradi quasi. A che ora? Ma esterna, temperatura esterna dici sempre? Sì, intorno alle 10:30, 11. E allora ha scaldato, perché c'era il sole Antonè, visto che c'era il sole ha scaldato, poi mi pare 11:30 ha cominciato piano piano a nuvolarsi, ho detto va, addio, si stanno volando, credevo che piovesse anche, invece non ha piovuto, troppo vento. E infatti appunto per quello, speriamo che comunque sia, fa cuffia. Ieri avevo portato quella radio che c'ho in macchina, il baracchino che ho in macchina, è chiuso in una sacca per provarlo, ma non c'era nessuno. Ho provato a pigiare, ma proprio ieri non ho sentito l'anima. Era uscito la guaina del microfono, dallo spinato microfonico, lì dove ci sono quelle vitine, no? Quel cavallotto con le vitine che tiene il cavo, praticamente le vitine si erano allentate, era scivolata la guaina in fuori e rischiava che io, tirando lo spiralato del Nike, tirassi i cavettini, capito, si potevano staccare. Allora ho aperto le viti, le ho messo un giro di autoagglomerante per fare più spessore e le ho strette di nuovo, l'ho infilato bene dentro e stretto. Ma con la 4 o con la 5? Quattro poli sempre. Ah ok, allora a posto, sì, non c'è proprio nessun problema. Poi, peraltro, quel baracchinetto che ho messo in macchina, che è quello senza smitter, che non è montato però, ce l'ho nel baule dietro, ha lo stesso attacco microfonico del 3009. Io prima di comprarlo avevo visto la piedinatura su internet e ho detto, beh, buono, con quello posso usare gli stessi microfoni, allora l'avevo ordinato all'epoca. Allora, sono precisi, qual è il problema? Ci mancherebbe. Quello è l'unico baracchino che non ha smitter. Non ha smitter. Che bello, non devi dare controlli. Di radio magari li puoi dare. Non di segnale, naturalmente. Eia, cioè non puoi dare controlli di segnale, ecco. Certo, un po' strano è, perché sei abituati a baracchini con lo smitter. Quello è un po', ti fa strano. Certe volte se premono manco te ne accorgi. Se la portante è muta, non manco te ne accorgi che c'è il segnale. Aspetta un secondo. Cavolo, ma non c'è mai nessuno in questo baracchino. Mamma mia, sempre peggio sta andando. Lo so. Grazie a Dio ci sono gli altri. Ciu, c'è nessuno? Non risponde nessuno. A fa culo. Se no, ti avevo fatto in diretta qua. Allo, allo, allo? Niente da fare. È andata male, Marco. Dove ti ricordi? Ma stavi chiamando tipo PMR? Bravo, ci sei arrivato, sì. Allora, facciamo così, vediamo un po'. In 27 si sente un rumorino fatto dall'interferenza elettromagnetica, fa una piccola vibrazione, si sente. Ho capito. E una volta, vabbè, c'era più gente in PMR, anche si faceva la ruota, ti ricordi, quando avevo le antenne esterne, adesso non so se la piazzerò prima o poi, per l'ascolto mia mi interessa. E se quale volevo ripiazzare? Quella Nagoya NL350, è un'antenna che è lunga, mi pare, 25 cm, una cosa del genere, 30 forse, di colore bianco, in fibra di vetro, e alla base c'ha questi tre radialini, ed è un'antenna B-banda, risuona VHF, UHF, solite bande, no? Amatoriali e PMR. E praticamente li metti una... la puoi fissare un palo con un cavallotto, così. E stazionarie pochissime, 1-1, 1-2, lo sai, in PMR. Però ripeto, a me servirà per l'ascolto, almeno non è ingombrante, è piccola. E qua fuori dal terrazzino, all'angolo più esterno ci sta bene. Va bene, la verità è qui sia. Poi c'è il modello più grande, la Nagoya 500 e spiccioli, lunga mezzo metro mi pare, sempre bianca, vetroresina, con lo stesso sistema di radialini alla base, c'ha tutti i radialini, cioè se ti interessa accordarla di più in VHF metti quelli lunghi, se la vuoi accordare più in UHF metti quelli più corti. E la vendono da AliExpress, io ce l'ho da tanto, ce l'avevo sulla finestra anni fa, sulla finestra e non sul terrazzino. Sul terrazzino c'era quella J-Pol monobanda, la Sirio, già ne ho poche di antenne da parte, c'ho quella Sirio monobanda, J-Pol, Sirio CX440, poi avevo quella monobanda della Diamond, la BC202, nuova, solo provata in terrazzo. La Venom Nova provai solo collaudata e messa da parte, cioè tutte le antenne da parte, senza contare le veicolari, poi di quelle ne ho ammazzi. Fra un po' mi apro un negozio. Forse fai prima la verità, comunque sia. Comunque va, a un certo punto, scusa, non la verticale. Però non te la faccio vendere, a un certo punto, quindi io, vabbè, sono l'apparecchio che non usa più cose, più o meno in verticale, quindi a un certo punto, ma comunque sia, a un certo punto per casa, per villa, quello che è, con dei portatili e siamo a posto. Sì, e io non te ne dico niente, i portatili lo stesso, se ne stanno ridendo, se ne stanno tutti ridendo. Ogni tanto carico le batterie, però le tengo scollegate in modo che non ci sia, che ne so, un po' di assorbimento, qualche miliampere, sai, te le scariche, invece non le sono scollegate. E quante spese folli per questa radio, poi, come vedi, non ne ha gana nessuno, manco io e ne ho gana a dirla tutta, tu ne hai gana di modulare. Piano piano, non ti preoccupare, la cosa già esce, non ti preoccupare, il discorso è quello, qualcuno già entra a un certo punto, quindi già ci divertiamo. Dovrebbero entrare donne per il radio, porca miseria, donne non entrano mai, anche se senti qualcuno nuovo, quasi nuovo oppure lavato con perlana, è sempre maschi. Lo so, sentono donne, lì ci vogliamo, te lo sai, a un certo punto, tutte donne, sai come si riempie la 27 in 10 minuti, non è vero, tutti i giorni entrano, è uno, tutti contenti. Ehi, già guarda, bastava sentire già la voce di Giovanna, quando lei entrava in radio, ti ricordi che spesso entrava qualcuno così a girare intorno, tipo i coccodrilli, gli squali. Ehi, già lo so, non dirlo a me, per carità, io. Entrava lì immediatamente tutti appresso, entrava gente, cazzo, entrava neanche 15 anni fa addirittura, figurati tu. Sì, è vero, se c'è una femmina in radio vedrà che escono i morti da sottoterra, i morti della 27 da sottoterra escono a pizzo. Tranquillo, non ti preoccupare, te lo dico io, adesso dico un paio di amiche mie di mettersi malattia, così il 27, non sai come entrano tutti quanti, tu ti vado a trovare, cazzo, anche se sulla gamba, cazzo, con la fame che c'è questo periodo. Sì, quello è un metodo buono, perché Una volta un CB mi aveva detto come si può fare a risvegliare un po' la 27, però io, non avendo idee, non sapevo nemmeno cosa rispondere. Mi sembrava, basta mettere il baracchino in mano a, che ne so, sorelle, cugine, anche la propria ragazza, moglie. Vedere che escono, ricominciano a spuntare antenne di baracchino in ogni dove. E vabbè, fidanzate no, intanto me lo, vabbè, cugine sì, sorelle, no, non ho fidanzate, ehi, se lo vuoi, insomma, niente, già lo sai. E vabbè, ma basta sapere che ci sei tu, che non è sola, capito? Oh, ioia. Beh, ho la narice sinistra fuori uso, mi dà un fastidio. Dovrei mettere di quella roba per stappare la narice, mi rinazina, però fa salire la pressione quello. È un vaso costrittore, quindi devo andarci molto cauto. Ah, ho capito, quello per aspirare, rinazzi da spanasare. Sì, quella se c'hai una narice congestionata, il naso chiuso, no? Tipo per raffreddore o per altro, rinite, ti fai due spruzzatine per ogni narice e te lo stappa. Però, ripeto, fa salire un po' la pressione, io la minima ce l'ho un po' alta. E quindi bisogna stare attenti a quello, tutto ormai da rottamare, dopo una certa età devi stare attento a tutto, quello che mangi, a quello che fai, a quello che trombi. Tutto rottamato sei in pratica, no, dico parlo in generale, però rispetto a quando hai 20 anni devi stare un po' più attento a tutto, devi fare più controlli, cosa che io non sto facendo, e non a Giugana, mi ha detto me. Tanto prendi un appuntamento e te lo danno dopo un anno e io gli dico a quello del CUP, guarda che io fra un anno sarò già morto, è inutile che me lo dia fra un anno. Lo so, ma purtroppo è così, se vuoi morire prima, beh, se no mi ti pigli l'appuntamento col coso, aspetta che ti attacco la tenda grande, così almeno ti pigli l'appuntamento con la... Aspetta. Ma hai ricordato una cosa, Antonella? Quando prendevano in giro Paoletto, dicevano 23:42, telefonate per appuntamento, ti ricordi? Come erano quei numeri? Ti ricordi sul giornale? Anche sull'occasione, sulla nuova forse, c'erano quei numeri, non so, tizia, offresi per massaggi particolari, per appuntamento e poi c'era il numero. Ma esistono ancora quelle cose? Penso di no, perché ormai con internet è diventato tutto un troiaio lì. Ehi, già esiste, non ti preoccupare. Sì, ma ci sono i fans, solo che lì non sarai marco, no, a spendere i soldi per vedere cosa. C'è gente che ne spende soldi, è tutto gratis, se ti fai un giro i video rubati di queste tipe poi li mettono su qualsiasi sito, boh, io porn, coso, cioè, e ci sono i babbei che pagano per vedere, boh. Appunto. 23:40 tanto ci va quello, quindi... Oh, senti, va, senti. Che c'hai a fianco con la maglietta nera? Devo chiedere il cellulare. Anche te. Capriccio al tavolo 12. No, non è quello, no. Questi sono quelli del saggetta, sono quelli. Non è il capriccio al tavolo 12. Questo è saggetta, più che altro. Beh, pensa che qua non arriva nulla, non arriva nulla, qua arriva, vabbè, il ponte amatoriale, quello che manda il Morse, sento qualche radioamatore da Sassari a 525, più forti ovviamente. E basta, con l'antenino interno si è molto castigato. Peccato, perché se volessi mettere un antennino al terrazzino lì nell'angolo dovrei bucare, cioè fare un altro buco per passare un altro cavo. Mamma mia, che mi rubati fa. Nessuno l'ha detta, comunque sia. Cucù, c'è nessuno? Vediamo se mi risponde. Forse sì, forse no. Cucù. Arrivi. No, ma non ho capito che cos'è quello, cos'è un ristorante, un bar, cos'è? Non è un ristorante, bar, è un coso. Allora, loro sono dentro la RSA in pratica, e salgono da sopra sotto e in pratica controllano tutto, tipo infermiere, capito? Ah, sempre loro sono, ho capito. No, perché qua non arrivano, vabbè, tu sei in alto, hai antenna esterna, quindi a ricevere ricevi tutto, qua non ricevo una mazza, da quando ho tolto l'antenna non ricevo più niente. Ma tu per quello che te lo sto dicendo, io li sento, quindi figurati tu. Uia, quando penso che una volta non c'erano i PMR, io avevo usato negli anni 80 per comunicazione a breve distanza, no? Per fare così, piazzare antenne TV, roba del genere, comunicazioni a breve distanza, i Maxon 49 MHz, Maxon scritto così, americani, 49 MHz, li vendeva quello in via Lomberto, credo che fosse ancora Adriano all'epoca, quel locale lì, non era Marco Michi ancora, era Adriano, e costavano un pacco di soldi, ti costavano quanto un baracchino, sai, ed erano dei portatili che avevano, io avevo preso il modello deluxe ovviamente, no? Con anziché un canale avevano, mi pare, 5 o 6 canali e lo squelch era regolabile, mentre al modello più economico c'aveva un canale e credo che avesse lo squelch fisso. Poi c'erano quelli a cuffietta, ho avuto anche quello, con la cuffia della Maxon 49 MHz, poteva funzionare anche con il Vox, e con quello ci parlavo con mille anni fa con una ragazza mia che abitava di fronte a casa, capito, per sentirci la notte soprattutto. Aspetta, c'è nessuno? Mi senti? Pronto, mi senti? Non accettami, sono. Pronto, PMR, mi senti? Pronto. No, niente da fare, vabbè, sono bambino. Questi pratica sono, come si dice, quei PMR famosi che vengono a poco prezzo. Ma stavi chiamando sempre quelli, lì un pappagallo in geriatria, un pappagallo urgente in geriatria, o una padella? No, non è quello. Quelli sono solo... Kevin? Nessuno? Mi senti? Non ho capito. Ah, c'è nessuno, mi senti? Ciao, mi chiamo Antonello, tu come ti chiami? Dario Luigi. Ok, ciao, ben ascoltato. E comunque, Antonello, da questa parte. A Sassari. Sì, a Sassari? Io no. Vivo a Sassari. E da che parte? Da che parte vivi, scusa? Via di Cedo. Perfetto. Via di Cedo. Ah, via del Feno, ho capito. E quanti anni c'hai tu? 8. Allora sei grande, sì, qual è il problema? E tu dove vivi? Io vivo qui a Lune Sole, ho 20 anni. Non gli fare il gioco della calzetta, mi. Senti, io sotto queste cose. Giovedì lì, sono Pacciani, sono Giro Limoni. Infatti Giovedì. Aspetta, dimmi, sono qua. Non mi siete più là. Oh. Sai cos'è? Quando tu gli fai un po' di domande e quello dice questo chi è, cosa vuole? Magari è un malintenzionato. No, ci sono due. Grazie. Ci sono quelli del saggetta, ci sono che hanno parlato sotto. Quindi non voglio proprio dire coglioni. Che mi conoscono, quindi a un certo punto. Ogni tanto mi corteggio su AliExpress col famoso trasmettitore FM, ogni tanto ho questo pallino, me lo guardo, te lo danno sia senza antenna che con l'antenna, è una cosa che mi ha sempre attirato, poi tu avevi accantonato l'idea, vabbè, peccato. Assolutamente no, non mi serve quel ponte, mi serve il ponte ripetitore, cazzo, mi serve, e anche l'altro, quindi siccome vi tiro 1028 al mese adesso, quindi a questo punto mettiti piano piano, come ti si dice, no? Buscami il come si chiama, prima di tutto il ripetitore, quello famoso, dopodiché l'altro, il trasmettitore da FM, mi serve solamente quello, mi serve altro, nessun'altra cosa a me, io sono a posto, tranquillo. Vabbè, ma forse tu stavi parlando del Parrot, no? Quello che ripete in PMR, no, stavo parlando del trasmettitore FM, 8808, e ti puoi fare un'amministrazione abusiva FM, ovviamente, una volta era più tollerata, adesso sarebbero casini, no? Oh, non cambia nulla, già lo sai anche tu, quindi non cambierebbe anche col Parrot, hai capito? Vado in galera, quindi non preoccuparti, quindi ci siamo tutte e due cose. Tu fammi sapere quanto costa, dopodiché mi aiuta. No, ci sono due dati, stanno facendo il centro qua. Vabbè, io sono qua con Eleonora. Non mi aiutare. Vabbè, ce ne senti poca di roba. Lo so, se vuoi ti aiuto io, se mi danno mano, vediamo se mi risponde. Oh cazzo, mi risponde. non mi risponde, vabbè, pazienza. Aspetta, non ho capito l'ultimo passaggio, Antonè, ripeti. Ah, ti stavo dicendo che in pratica a me, vabbè, prendermi in pratica il ripetitore PMR e poi anche l'altro, fare qua tutti e due. Il discorso è quello, no? Cioè, separati adesso da una parte e prosumare dall'altra, capito? Tutto lì, ma non tutto assieme, il discorso è quello. E se non ce la faccio, scusa, eh. Ehi, ehi, chi è che vuole entrare avanti? Beh, oh yeah, nulla è, bella la Sardegna, tappiamo di classe ai fichi d'India. Cosa vuoi, fichi d'India? Beh, popucu. Beh, usciabucu, come va, tutto a posto? Ma la so, te cazzo, diavolo. Popucu, sempre a retto so. Ah, non ho capito. A retto sono. A retto sì, e se si è a retto non c'è problema, basta andare qualche circolo e non c'è problema. Mi trovo di quante ne vuole, trovo di quante di donne. Col barretto, barretto, cappellino, mi, cosa arretto? Ah, scusa, scusa, ho capito diversamente, vabbè, scusa. Comunque passo ogni mattina vicino a casa tua, ogni mattina. Alle 8 meno 20, dai, passo lì di fronte a Kuwait per salire a Oslo, ogni santa mattina. Peccato che non c'è più cosa, se no guarda, sarebbe stata una bella, avessi fatto 13, ma purtroppo adesso c'è una vecchia cieca, sono visto, stamattina, per carità, era meglio cazzo, quella che c'era prima. Ciao Marco. Oh, finalmente entra qualcuno, mi. Eravamo disperati con Antonella, ho detto, ci buttiamo tutto, non entra più nessuno, anche perché, sai Luca, tra un lutto e l'altro, boh, 97 sta andando male, proprio col pompone ci lascia. Che non sono come morto, mi. Lo sai, quindi, piano, piano. Comunque, Antonè, un fondo di verità c'è, io l'ho detto scherzando quello del testamento, ma metti che schiatto stanotte, c'è un incidente, cosa ne sgoggo? Io a chi le lascio tutta questa immensità di radio e di antenna? Io devo lasciare qualche scrittura privata, il favore tuo, ti lascia tutto, tanto tu c'hai la passione nelle radio, poi ti arrangi tutte, le vendi, te le metti a tracolla. Però questa roba se crepo la buttano tutta nel cassoletto, senza scherzi. Buttateci via tutto, là. Che doppio rubo, dopo tanto già. Io c'era anche ieri sera, buonasera, se voi non entrate. Io c'era anche ieri sera, guardate su 10 non c'era nessuno, sono andato su 23 e stavo parlando su 23. Non lo sapevo già, perché io praticamente lascio acceso sull'ICI, squalciato, e certe volte non faccio nemmeno carrellata. Ok, ancora Antonio per i saluti. Comunque buonasera a tutti. Io, ciao Gianni, buonasera, aver sentito. Comunque, Marco, augurati che non voglio mai io, perché non avete un cazzo, la verità, perché si perde tutto Giovanna, quindi a un certo punto non ci sono più i comandi una volta con Giovanna, quindi a un certo punto, almeno quello, cioè, almeno quello di buono già è, ma comunque sia, vabbè, pazienza, io non ammiro, cioè non ci vado io, come è stato fatto magari a una persona che è appena morta, eccetera eccetera, non mi piace, capito, il discorso è quello, tutto lì, ma non me ne frega niente, più di tanto, boh, il discorso è chiuso. Chiaro e conciso, Luca, riprendi. Questo discorso lì che avete salito, come già aumenta un po' la radio così bene, va. Bella, bella, sai, migliore, prima era troppo risicata. No, io Antonello stavo scherzando, ma non troppo, ho detto se crepo domani, queste radio ci buttano tutto qua senza scherzi. Tutte queste radio, mi devo fare una scrittura privata e lasciarla a qualcuno, tipo Pomponio che si è sempre dimostrato molto aiutarmi con l'antenna e tutto, molto disponibile, ecco. E vabbè, non ci pensate a queste cose, già siamo buoni, se da voi pure di voi, tocca a farmi di gruppo. lo so, infatti. Sentimi, sai, senti che lo lascio, guarda. C'è nessuno? No, non mi rispondono, cazzo, tali motte, cazzo, pazienza. Vabbè, comunque sia. Lascio tutto a Giovanna, non a me, quindi a un certo punto, chiunque sia, sarà con lei e va a far culo a un certo punto. Chi se ne frega, cioè io non ci guadagno niente, gli altri altrettanto, quindi a un certo punto tutti spariti. E vabbè, che riprendono anche gli altri, non posso parlare sempre io, no? Se parlate di morte ce ne scappano tutti. Avuto, se parli di volte sì, grazie a Dio. Ma visto, io. Io parlo con quelli del coso, del saggezza, sono con la Vivi. Ma cos'è? PMS? Si sente, sì. Cosa vedi, dai, cazzo? Sono un PMR in pratica, su canale 446-006, per esattezza. Antonello è fortunato perché è molto in alto e riesce a beccare tutta Sassari con l'antenna esterna. Io non c'ho più nulla di esterno e in futuro vedremo. E comunque sarei basso qua, risulta un primo piano dai, dalla parte interna del palazzo e quindi sono molto chiuso. Io c'è solo un intec omologato e l'ho messo da una parte. Lo devo rimettere la batteria, perché la batteria, quello lì, è consuma un po' di batteria. Vabbè, pazienza. Io, anche io sono la batteria per questo, la vita si dica. Ah, a proposito di batteria, Antonetti, io volevo segnalare una cosa. Dimmi. Hai presente un V5R, no? Allora, vendevano da AliExpress questi portapile, praticamente di pacchi e batterie vuoti, dove tu metti le stilo o le mini stilo da 1,5, quelle nickel card meno ricaricabili, no? O se vuoi puoi mettere le pile anche normali, però a me interessava quelle ricaricabili. Allora, tu le metti, il contatto funziona, accende, funziona, però come vai a trasmettere l'apparecchio impazzisce e si spegne e va in protezione, come che avesse un grave rientro di RF proprio sull'alimentazione con quel tipo di batterie. Lo fa solo con le ricarica, con quel pacco batterie riempito con le nickel cadmio, ho capito. Quindi lo puoi usare in ricezione, ma in trasmissione è inutilizzabile. Ho capito. Quindi in pratica quel tipo di batterie è già in culo là. Ma volevo provare a mettere della stagnola dalle parti interne di questo guscio portabatterie, vedere se riesce a schermare, ma non ne vale la pena, vabbè. Però non ho provato con le pile normali, quelle Zagetta non ho provato, ecco. Ho capito. Vabbè. Comunque questo non mi sembra il saggezza, la verità. Secondo me questo è un bug di quella presa dieta. C'è nessuno? Mi senti? Mi senti? Pronto? Mi senti? Certo. Ecco, tu chi sei? Dario Rossi. Dani? Mario. Ah, Mario sei tu. Oh, ho capito. Io mi chiamo Antonello, piacere. Da dove stai parlando? Questo è proprio il più bello questo. È un casino. Già, Antonello è preso sempre da questi PMR, senti sempre voci nuove, o di passaggio, oppure bar, ristoranti che lo usano, ospedali, eccetera. Vediamo se ne è rimasto Luca. E ma cosa te ne fai per sentire? Porto al tavolo 4 un cappuccino e la te va chiata. Un giorno ho fatto una cosa del genere, ha detto forse un ristorante, dice un capriccio al tavolo 12, e quella stava dicendo, ma noi chi è che ha fatto quell'ordinazione? Dice, noi no, non ne facciamo capriccio. Pronto, mi senti? Pronto? Porca miseria, non rispondo. Pronto, mi senti? Che te la fai? Non rispondo. Eccolo qua. Chi sei? Pronto, mi senti? Chi sei? Che cazzo? Non risponde, fanculo a lui. Gianni, dicevi che avete parlato in due. Adesso risponde. Adesso risponde. Che sonda. Io mi sono, mamma mia, sta mia mamma. Come? Adesso mi hai risposto poco fa, 2 minuti fa. Avanti tu, dai. Ma ti piace così tanto il PMR, boh? A me non mi piace. A me invece mi diverte, la verità si dica. C'è un sacco di gente. Se non ti piace è un discorso diverso, ma a me comunque sia, sono tutti i PMR. Quindi figurati tu, c'è un sacco di Leone. Ambulanze, di tutto c'è. Antonio, ma per sentire proprio il cappuccino, perché che gusto c'è? Il gusto ce l'ha prima quando c'è il ricevitore, prima sì che c'è il gusto. Oh, aspetta, ho già, mi sono avviato questa antenna strana veicolare, una specie di antenna multibanda per il ricevitore, da usare in macchina. Cazzo, perché tu ancora in macchina lui? Il ricevitore sì, certe volte lo porto, se devo fare uscire fuori Sassari, così per passare il tempo, eccetera. Ed è un'antenna multibanda che ti fa, c'ha vari stili di diverse lunghezze, capito, per VHF bassa, VHF normale, VHF e anche più su, che però più su non senti nulla. E come quella che c'ha Vittorio Giove c'era così. C'è un'antenna e si vede prima l'antenna e poi si vede il palo della luce che ci avvicina. È un beata. Ah, ma quella era per l'HF, era un palo, lui ci ha avvolto un cavo, ti ricordi? Che sogni altezza, impressionante però, eh? Poi ha chiamato, hai visto all'istante e gli hanno risposto. E quindi rende bene, cioè non è un normale antennino HF da macchina, che sono 1,5 metri, no? Oh, funzionano anche quelli, eh. Io ti garantisco che funziona, ne avevo già accennato, no? Avevo provato, ma non lì però, non comment, dai. Sì, vabbè, non è così proibito. 45 metri. No, è così, era taratta, proprio era taratta, è taratta la me, ci ho aggiunto l'andore, ho provato a fare fischiato, è quello, avanti che fischia, cioè, troppo facile, non c'era neanche gusto, capito? Dal continente, era una voce continentale, era di quelli a, all'epoca 6.585 così. Sì, entra. No, ho fischiato, ho fatto un fischietto singolo. E quello si dà, avanti che chiama, avanti che fischia. Aspetta, c'era il compleanno, c'era. Capito già, funzionava, cioè con l'antenna da macchina volgare, purché risonante, non c'era alcun problema. Bastava parlare da una zona buona, in quel caso era dove c'è l'ancora a Porto Torres, dove abitava Sandromi. Quello è un punto ottimo. Sì, ho capito. Cazzo, perché non ci abita più Sandromi? No, non credo, ma da un be, non credo che abiti più lì, non c'è più nulla lì. Come non c'è più? Ci sono le case, cosa non c'è più? Sandro Tigre, misto di cielo, il CB, credo che non ci sia più da secoli là, che non abiti più lì. Io non l'ho più visto, da quando si era trasferito lì non l'avevo più visto. Sì, lui non modulava più da tanto, da lì. Oh, ci ha rimesso più antenne che altro, amico, quel maestrale fortissimo. A lui gli distruggeva sempre le antenne. E gli arrivava proprio di impeto dal mare, capito? E gli ha distrutto una Game Master, dai. Lo so. No, comunque già, questa è piccola. Questa è un'antenna VU, diciamo, sempre... Però c'ha vari stili. Certe volte guadagna un po' rispetto a quella normale VU, piccoletta, capito? Mi volevo togliere uno sfizio, dai. Ma dovrei farti una taratura, anche se l'ho visto solo in ricezione, dai. No, quella no, è come una discone, ha tanti stili per risuonare in tante bande, bene o male le copre tutte. Ed è accordato anche in trasmissione, e l'ho provato con l'osmetro per curiosità, è accordata pure in trasmissione. Ma a me serviva solo per ricevere, dai, tutto lì. Che ne so, banda aerea, banda tutto bene, più o meno riceve. È come una discone da macchina mia, ecco. Devi stare con questi stili sempre intercambiandoli, secondo che manda mai devi cambiare lo stile, così. No, c'ha quattro stili affiancati in contemporanea. Aspetta che ti mando la foto, dai. Un attimino. Ma l'hai già ricevuta. Ah, io riprendete voi, sto asciuttando già, devo andare a bere. E poi vado a guardare anche il telefono, ce l'ho in carica. Ma ti è arrivata già o te l'hai ordinata sola? No, l'ho già provata, testata, l'ho provata anche con l'osmetro e risuona. Soprattutto in PMR e un bijou, vabbè, ma non è per quello che l'ho presa. Vabbè. E oggi con la magnetica. Sì, nasce così, con la magnetica integrata. Quindi la magnetica la puoi mettere su qualsiasi base ferrosa, oltre che la macchina la puoi usare anche in casa sulla ringhiera, roba di... Fregato, perché qua le ringhiere, il terrazzino c'ha la ringhiera tra virgolette in muratura, non abbiamo nemmeno delle ringhiere in ferro, dalla parte interna solo, da. Perché io non ho terrazzino, io sono al piano rialzato, quindi terrazzino non ce n'è. Invece chi è dal primo piano in su adesso hanno messo i terrazzini, quelli belli in ferro battuto. Che sfiga! Ho visto su internet come fare un'antenna parabolica che prende tutte le stazioni televisive, tutto, anche Mediaset, Play, eccetera, eccetera. Prende tutto. Con la forma della lattina, lo tagli, gli fa un buco al centro, ci metti il connettore per l'antenna, lo avviti e poi la sistemi dietro. E se qui gli antigati l'hanno fatto vedere, prendeva tutti i televisori possibili e immaginabili. A proposito di antenna TV, io con l'antenna che ho qua nel terrazzino va ancora bene, però mi si è rotto l'elemento di riflettore dietro. Hanno fatto i lavori un po' qua, prima si era storto, poi si è spezzato del tutto. Capito? L'elemento riflettore, quello più largo dietro. e la devo cambiare. Ah, vabbè che era l'antenna del primo quella, in realtà non serve più. Eppure lo sai che mia zia ha notato un incremento del segnale TV. Cioè, ormai la banda VHF non si usa più, no? Si usa solo l'antenna VHF per la TV. Eppure lei aveva provato a piazzarla, aveva provato senza l'antenna VHF, oppure piazzandola assieme al miscelatore, e ha notato che comunque gli migliorava ulteriormente la ricezione dei canali TV. Come mai? Boh, forse perché lavora in terza armonica, non mi ricordo. Comunque sai, le frequenze bene o male sono risonanti. C'è la banda TV, la banda televisiva VHF la moltiplichi per 3 e sei nella banda televisiva U. Non so, faccio sa che risuona, qualche guadagno in più glielo dà, e quindi lei ha tenuto l'antenna V e U, capito? Un po' come qua. C'è un americano, lo senti? E a voglia che lo sento. Eia, ma Luca non riprende più, è già uscito. No, è quello che sta cantando su cosa? TikTok, non si vuole toccato. Andiamo, ce ne c'è a pizzo. Ho detto il ventaccio di oggi, già stavamo dicendo Grantonello, adesso ne scendono le antenne, ha detto. Invece vedo che tiene botta, tiene sempre botta, perché è sottile, capito, la energy. È come quella che Antonello ha, la BA27L, che poi alla fine è uguale, concettualmente è la stessa antenna. E ce l'ha anche Antonio, ce l'ha anche Marino. Sì, Marino mi ha fatto vedere le foto dell'installazione, anche lui ha messo le energy. Peccato per quell'altra, hai visto come gliel'ha rotta, pazienza. L'ho visto, no, ma me l'ha detto. E poi c'è quel sistema, hai visto che bello, come si chiama, il vericello, che può alzare e abbassare, la può coricare, antenna e palo. Quindi se devi fare delle modifiche, aggiungere roba, aggiustare, non fai altro che girare la manovella, è una figata. Però lì lo puoi fare, vabbè, perché sei in un villino per conto tuo, certo? Non lo fai in condominio. Sì, già lo puoi fare anche il condominio, ce lo puoi fare, ci ti danno il permesso. Ma via. Sì, sono sistemi molto utili, perché non devi chiamare nessuno, ti fai tutta la sua. Eia, oh, poi motorizzato sarebbe stato il non plus ultra, motorizzato, premi un tasto si alza, premi un tasto si abbassa. Sì, che non si incolla. L'antenna mia, Antonio, non il pisello mio. Ti ho capito, non ti preoccupare. Berlusconi aveva non il tastino, ma aveva la pompetta, ti dico, la pompetta, pompavi, e poi come quelle, il coso misuratore di pressione, quello con la pompetta, aprivi la valvolina e si sgonfiava, mamma mia che cosa strana. E lui usava quella, quando era dritto, tac, tac, bloccava tutto. A un certo punto dice, adesso premo e faccio uscire lo sperma e non c'è problema. Ah. E così faceva, così che faceva secondo te? L'ha detto anche la sua fidanzata, quella che è Forza Italia, che non ha mai fatto un giorno cazzo di coso, figurati, si guarda lo stipendio senza fare un cazzo. Eia, bisogna fare il parlamentare, Antone, quello sì, è un lavoro. Davvero, la verità, è davvero, per carità, guarda, non so se farlo davvero, guarda, ho scherzato una cosa del genere, tanto ormai conviene cazzo fare una cosa del genere, allora fare casino, hai capito, sempre parlare, come ha fatto quello scemo cazzo di cosa, ma devo mettere 5 stelle, ma comunque sia, a un certo punto se la posso piare in culo. Gianni, ti voglio dire, Ma quello messaggio che mi avevi mandato era un video, c'era gente che pregava o roba del genere, ma cos'era quello? Una funzione religiosa, ma cos'era? Una catena di Sant'Antonio, cos'era? Non me lo ricordo nemmeno io, ne mando i dati. No, non penso, il catena religiosa io non solitamente non ne mando, a meno che mi sia scappata, non lo so. Ah, ecco, vedi, ci sono due atleti che portano una Madonnina con dei fiori alla base. Ah, la Madonna è Lourdes, sì, una cosina così di, per le festività, meglio. Quelle cose che io non seguo. Beh, le stavo guardando l'altro giorno, sì, è vero, c'era, mi sa, ieri, proprio ieri era il compleanno della Madonna di Lourdes. Non lo sapevo. Di quelle, vabbè, io non te l'ho detto, già non le seguo. Mamma invece è più di per la Madonna delle Grazie, se l'ha messa in testa, poi gli anziani vanno sempre a parare lì, siccome non gli resta altro vanno a rifugiarsi nella religione, dai, vabbè, spero di non farlo anch'io, va? Non è male, dai, non è male, non sono banziani, bisognerebbe andarci sempre a pregare. Purtroppo già la fede uno ce l'ha o non ce l'ha. Non saprei. Va bene, poi guardati con l'antenna già, quando vuoi. Vado a prendere l'acqua un attimino, da bere. Quando mi alzo, perché sta caricando il telefono, la scarico che stavo cantando. Si ritentia, vado. Sono qua, dimmi tutto, non c'è problema. E beh, rimorchiatatela qualche ragazza in questo WMR. c'è da rimorchiare, a voglia. C'è da rimorchiare, eh. Pronti, mi senti? Senti, c'è la mano rimorchiare, va bene, tutte donne sono, bello, tutte infermiere. Guarda Antonè, quelle infermiere lì che senti via radio, quelle ogni tanto già ce n'è qualcuna parecchio buona, pure ti devi tentare quelle. Tutto a posto, non c'è problema. Tutto a posto, magari, cazzo.